9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia. Oggi ritorniamo, come già vi avevo preannunciato ieri, sul caso di Alma Shalabayeva e della figlia di 6 anni, Aula, espulse dall'Italia alla fine di maggio, vicenda che abbiamo trattato. Se ne volete una ricostruzione naturalmente parziale, perché risale a martedì, c'è la puntata di martedì della scorsa settimana nella quale abbiamo cercato di fare il punto e appunto di raccontare la vicenda. Ieri c'è stata la relazione del ministro dell'interno Angelino Alfano, chiamato a rispondere in Parlamento sulla vicenda. Una relazione che alcuni hanno trovato piuttosto lacunosa e che però pone, a prescindere da tutto, un problema politico. La questione politica è se il ministro Alfano si debba dimettere oppure no. E questo è quello che vi chiediamo oggi. Potete chiamare all'800 24 00 24, scrivere, e già lo state facendo, sulla nostra bacheca Facebook, www.facebook.com/9inpuntoradio24. Naturalmente è una questione che ha a che fare anche con la politica e con la tenuta di questa grande coalizione. L'editoriale di Stefano Folli oggi sul Sole 24 Ore parla di una sorta di necessità di realpolitik domestica. Saluto Felice Casson, senatore del Partito Democratico e segretario del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Casson, l'ha convinta la relazione di Alfano? Assolutamente no. Piena di buchi, di mancanze. E ovviamente parlo a titolo personale, non segretario del COPASIR, per la cui attività non si può parlare pubblicamente. Quindi sono considerazioni che ho maturato sentendo l'intervento di Alfano ieri al Senato. E mi sembra una mezza barzelletta, per carità. Poi ci sono appunto questioni di realpolitik interna, questioni di maggioranza di governo che vanno valutate dal Partito Democratico, e quindi in quanto tale, trattandosi di questioni di fiducia e di stessa del governo, personalmente mi rimetto alla linea del Partito Democratico, ma quello che ha detto Alfano è una presa in giro. Non funziona certo così, non è andata in questo modo, non credo che la polizia si comporti in questa maniera, ci sono ancora molte cose che preoccupano. Quindi Casson, lei seguirà la disciplina di partito appunto per questioni di realpolitik, ma fosse per lei e fosse svincolato dalla disciplina di partito, la sfiducia ad Alfano la voterebbe? No, non voglio fare una questione di fiducia in questo momento, perché non è una questione personale. Sto dicendo che sulla ricostruzione dei fatti ci sono molti buchi e, a mio modo di vedere, le cose non sono andate in quella maniera, né in partenza e neanche durante le varie fasi. Cioè, secondo lei il ministro in realtà era informato? Perché questo è uno snodo centrale. Ma il fatto che per 3-4 volte la relazione del capo della polizia si senta in dovere di specificare che il ministro non è mai stato informato di niente, se da una parte fa un po' ridere, dall'altra mi preoccupa, perché dire che c'è una struttura estremamente importante e delicata come quella di polizia che è al di fuori del controllo politico. Questo è un altro tema che viene posto tra l'altro da Silvio Berlusconi in un'intervista oggi sul Corriere della Sera. Il titolo è "Angelino non si tocca, la colpa è dei burocrati". C'è chi dice appunto che in realtà il paese è in mano ai burocrati. Lucio Malan, senatore del PDL, buongiorno. Buongiorno. Immagino che secondo lei insomma invece la relazione sia soddisfacente o magari non ha soddisfatto nemmeno lei. No, la relazione io trovo che sia stata anzi inappuntabile. Mi sono trovato ieri a fare un dibattito telefonico simile a questo con un altro senatore del Partito Democratico che l'ha definita proprio inappuntabile, poi dopodiché sono legittime le diverse opinioni. Ma è inappuntabile anche per quanto c'è dentro, quanto emerge, sono fatti negativi. Su questi fatti negativi sono stati presi dei provvedimenti chiari e forti. La dimissione, ma di fatto la rimozione del capo di gabinetto la intenzione di riordino a breve dell'ufficio di pubblica sicurezza sono delle risposte vere. È indubbiamente inaccettabile che il ministro non sia stato informato di una situazione così delicata, e il problema dei burocrati che tendono a decidere al posto di chi dovrebbe decidere è un problema vasto. Generalmente quando però c'è da parte della politica che poi si deve che poi deve rispondere, l'unica che deve rispondere a qualcuno, e cioè risponde agli elettori, quando c'è un tentativo di riordinare la burocrazia c'è sempre l'accusa: ah, la politica vuole occupare questi ruoli che sono tutti e dovrebbero essere, spesso sono super partes. Il punto è che la volontà del popolo non è super partes, chiede che certe cose siano fatte, e molto spesso la burocrazia, ed è anche naturale che questo avvenga, frena. Però ci vogliono i mezzi da entrambe le parti, cioè la burocrazia è giusto che sia tutelata, la Costituzione stessa dice che deve garantire la imparzialità della pubblica amministrazione. È chiaro che però l'imparzialità non vuol dire la totale estraneità al corpo dello Stato, e cioè se la volontà del popolo è fare determinate riforme, queste riforme vanno fatte anche se a certa parte della burocrazia non piace. Allora, qualche commento che già ci sta arrivando su Facebook, e ci arrivano da stamattina sulla nostra pagina Facebook. Ci scrive Gustavo Gesualdo: posto che l'intera vicenda evidenzia un alto tradimento istituzionale dei vertici burocratici italiani, evidentemente sottomessi ad un governo straniero, si domanda a cosa serve il governo della politica se la burocrazia può prendersi gioco così facilmente della politica sostituendosi ad essa. Segnalo invece a chi posta sulla bacheca Facebook l'intervista a Procaccini, lo stesso Procaccini, al capo di gabinetto dimissionario, con il titolo "Informai il ministro, mi sento offeso". Suggerisco di andare a leggere dentro il testo, perché è il punto nel quale Procaccini dice di aver informato il ministro che si stava per mettere in atto un blitz contro un pericoloso latitante, e quindi si era ancora alle notizie secondo le quali in quella famosa villetta di Casal Palocco c'era Ablyazov e non c'erano solamente la moglie e la figlia. Lo stesso Procaccini dice poi di non essere più stato informato dei fatti, e che l'unica informazione che ha ricevuto successivamente è stata quella che non si era trovato Ablyazov dentro la villetta. Senatore Casson, anche la dimensione di questo sfilacciamento che leggiamo, e ammesso che sia così, che questo sfilacciamento ci sia stato nella catena di comunicazione, sarebbe veramente preoccupante. Ma io dico proprio questo, nel senso che la preoccupazione va in due direzioni. Se l'autorità politica, il ministro in questo caso dell'interno, sapevo ovviamente un problema di un certo tipo politico, non solo interno ma anche internazionale, se il ministro, come sostiene, non sapeva nulla, è più grave per le questioni interne, perché non ci possono essere apparati separati, isolati dello Stato che intervengono in materie tanto delicate che riguardano i diritti fondamentali delle persone, che riguardano aspetti di diritto internazionale ormai pacifici, che tra l'altro implicheranno responsabilità italiane a livello internazionale. Non è pensabile che questa situazione possa essere gestita da un apparato, per quanto importante, però comunque è un apparato amministrativo come quello della Polizia di Stato. Va capito all'interno esattamente cos'è successo, in un senso e nell'altro. Credo ieri il nostro vicepresidente vicario, quando è intervenuto dopo la comunicazione del ministro Alfano, era molto perplesso, con molto garbo e direi anche molto chiaramente, peraltro ha detto che ci sono ancora delle situazioni da chiarire, che rimaniamo in attesa di chiarimenti, e anche se personalmente le mie perplessità sono già molto molto forti. Ci scrive sempre sulla bacheca Facebook e poi inizieremo anche con qualche telefonata. Fabio Ferrari dice, ci scrive con sommo rammarico, devo dire che credo che Alfano non si debba dimettere. In 3 mesi non può avere in mano l'intera struttura del Ministero in tutte le sue parti. Gli si deve però chiedere di effettuare una profonda ristrutturazione e pulizia, perché è evidente che anche lì la gigantesca e incontrollata pletora di burocrati ha preso il sopravvento. Saluto e voglio sollecitare su questo Claudio Fava, deputato di SEL, anche lui componente del COPASIR. Insomma, SEL, come sapete, insieme al Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Alfano, che verrà discussa venerdì, Fava? Sì, buongiorno. Buongiorno, venerdì. Buongiorno, venerdì. Ci scrive questo ascoltatore e leggiamo anche da altre parti, in alcuni commenti dei giornali, ma insomma, non è che uno in 3 mesi può avere in mano completamente il Ministero. In più, quello era un momento di passaggio nel quale si stava decidendo il nuovo capo della polizia. Possono aver giocato 1000 elementi. Lei cosa risponde a questo? Stiamo parlando non del concierge di un albergo, ma del ministro dell'interno, cioè stiamo parlando del titolare del dicastero più importante dal punto di vista della sicurezza complessiva del paese, l'ordine pubblico, la sicurezza dei 60 milioni di italiani rimessa anche nelle politiche che vengono governate dal Viminale, il ministro dell'interno, e l'idea che il ministro possa non sapere, non quello che fa l'ultimo dei burocrati, mi sembra anche abbastanza come superficiale, ma il modo in cui la linea di comando interviene su una vicenda violando decine di norme di diritto interno e internazionale, mettendo a repentaglio vita e sicurezza di una donna e una bambina di 6 anni, e tutto questo per 5 giorni all'insaputa del ministro dell'interno. Mi permetta di dire, come ho spiegato ieri intervenendo in aula col ministro Alfano, non gli credo. E se davvero il ministro non ha saputo, se davvero questa incredibile congerie di violazioni e di forzature sono state fatte all'insaputa del ministro, è ancora più grave, perché come dire, mancherebbe di autorevolezza e di legittimità un ministro che non è capace di farsi informare su passaggi estremamente delicati come questi. Stiamo parlando non, come dire, di un foglio di via ad un vagabondo, ma di una donna e di una bambina sulla quale, una donna sulla quale non c'era alcuna ragione di accanimento giudiziario, anzi tutelata come tutti i cittadini dall'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, che dice che in nessun caso si può disporre l'espulsione di uno stato straniero in cui quel cittadino può essere oggetto di persecuzione per motivi di opinioni politiche. Insomma, una struttura del Viminale che non è capace di appurare ciò che tutti i giornali dopo 3 giorni sapranno, che questa donna è la moglie di un dissidente kazako che ha ricevuto lo status di rifugiato in Gran Bretagna, che è perseguitato da questo sarto che governa il Kazakistan da 24 anni con percentuali del 95%, che l'ambasciata kazaka ha organizzato tutto, che c'è già un aereo in pista con i motori accesi, con un fotogramma di Casablanca che aspetta di prendere a bordo donna e figlia, e che tutto questo avvenga all'insaputa della catena di comando del Ministero dell'Interno. Beh, a questo punto il Ministro deve lasciare, se non altro per inadeguatezza, cioè mi sembra persino più grave se il ministro davvero non sapeva. Non è un problema di burocrazia. Sì. Io devo dire, Fava, che insomma, in tutto il discorso che lei sta facendo, a me una delle cose che mi lascia più perplesso della vicenda è questa mancato riconoscimento da parte anche dei funzionari del ministero della qualità politica del marito della signora, perché insomma francamente bastava fare una ricerca, cercate Ablyazov su Google prima di andarlo ad arrestare, che è una roba che faremo banalmente tutti, e troverete di chi si tratta. Andrea da Rovigo, buongiorno. Buongiorno. Io sono praticamente d'accordo con chi è intervenuto. Non vorrei essere troppo semplicistico, però un ministro che non sa, secondo me si deve dimettere. Un ministro che sa, si deve dimettere. Un ministro che non sa vuol dire che si circonda di gente incapace e di conseguenza è incapace di fare il ministro. Se invece la questione è politica, di tenuta del governo e di tutto, cioè, e di questo discorso, stiamo parlando di niente. Cioè, se dobbiamo far finta di niente perché il governo non cada, facciamo finta di niente, tappiamoci gli occhi e fine. Allora, grazie Andrea. Allora, sulle sollecitazioni di Fava e del nostro ascoltatore da Rovigo, dunque Lucio Malan ha sentito cosa dicono, insomma, se sapeva, sapeva, se non sapeva, comunque è grave, perché un ministro da questo punto di vista deve sapere. Io le aggiungo una domanda, allora, ho capito il segretario del PDL, ho capito che è il vice premier, però perché far dipendere la tenuta di questo governo politicamente da un fatto, no? Che è un fatto che viene riconosciuto come problematico, elemento di frizione e così via? Beh, perché bisogna, il punto è, se ci sono colpe da parte del, se ci fossero colpe da parte del ministro Alfano sarebbe un conto, però allora se uno, se una persone di una struttura che avrebbero il dovere di informare il ministro, non informano il ministro, a me pare che sia colpa di queste persone e non del ministro. Sarebbe colpa del ministro se una volta scoperto questa cosa non facesse in modo di cambiare le cose, di modo che non si abbia a ripetere una situazione di questo genere. E poi vorrei anche riportare qualche elemento per capire sì, meglio la questione. Allora, questo Ablyazov non è proprio il Nelson Mandela, il Mahatma Gandhi. Ah no, questo è chiaro, ecco. Ma là, mi scusi, abbia pazienza, mi scusi, la interrompo, perché questa è un'importante precisazione che abbiamo già fatto anche in altre occasioni. Dal Kazakistan quest'uomo è ricercato per truffa, poi bisogna vedere come funziona il diritto penale in Kazakistan. Ma lui è stato anche condannato in Gran Bretagna, e in ogni caso il mandato di cattura era un mandato di cattura internazionale, non era un mandato di cattura della polizia kazaka. La signora Shelabayeva, probabilmente intimorita, ha negato addirittura di essere la moglie di Ablyazov, e lei, quanto a lei, nel momento in cui è stata espulsa, non aveva i titoli per restare in Italia. Per cui bisogna, cioè, è chiaro che altrimenti, se si dipinge la vicenda senza alcuni decisivi dettagli, sembra quello che non è, perché allora questa persona, il signor Ablyazov, era colpito da mandato di cattura internazionale, la signora Shelabayeva risiedeva illegalmente in Italia, poi il fatto che dell'operazione sia stata fatta in modo avventato e senza informare il ministro dell'interno, certo è un fatto grave contro il quale vengono prese delle misure, però riportiamo le cose sui binari veri, e questa persona, tra l'altro, è vero che è un'accusa del Kazakistan di essersi impadronito di 5 miliardi di euro, se non di più, ma di certo non faceva, insomma, da qualche parte i soldi che manovrava in Inghilterra c'erano, per cui insomma non è che possiamo, solo perché viene dal Kazakistan, deve essere una cosa totalmente infondata, e in ogni caso, ripeto, era un mandato di cattura internazionale, vorrei vedere se non fosse stato eseguito un mandato di cattura internazionale, le accuse che ci sarebbero di in tutto questo naturalmente c'è da vedere che cosa c'entrino la moglie e una bambina di 6 anni, perché poi il tema mi sembra anche questo. 9 in punto. Rodolfo ci chiama da Lucca, buongiorno. No, buongiorno a tutti voi. Ascolti, io credo che l'Italia già in un contesto internazionale era poco credibile. A questo punto credo che a maggior ragione i nostri partner europei debbano guardarci con molta attenzione sulle nostre attività sia interne sia internazionali, perché credo che un'azione del genere non possa non far dare le dimissioni immediate al ministro dell'interno, proprio per una questione di credibilità dell'Italia in un contesto internazionale. A meno che non si voglia far passare che in Italia le garanzie sono esclusive di alcune persone, e per queste persone si può fare nel nome di mantenere in piedi il governo, si fa passare qualsiasi cosa. A questo punto credo che non solo il ministro dell'interno si dovrebbe dimettere, ma io credo che tutto il governo a questo punto dovrebbe avere la decenza di dimettersi. Grazie Rodolfo, sentiamo anche Sergio dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, io non sono d'accordo con l'ultimo intervento, anche con qualche interlocutore. Io sono un assessore di un comune a provincia di Milano e devo dire che in 4 anni di nomina non ho mai firmato nessun atto, mai firmato una volta. Ritengo molto spesso noi siamo in mano veramente ai funzionari dirigenti che molto spesso cambiano addirittura le delibere che vengono portate in giunta e quindi rimaniamo succubi a volte di un sistema di burocrazia che investe la parte politica, che molto spesso si deve essere costretta a dare una risposta. Guardi Sergio, io questo è un ragionamento che capisco benissimo e anzi sarebbe da fare una puntata dedicata, però lei capisce che la situazione è di livello un po' più alto e un po' più delicato di questo, no? Cioè, nel senso anche a livello politico. D'accordo, però la notizia è trapelata forse inizialmente proprio da Sole 24 Ore con un trafiletto che aveva colpito subito la mia attenzione e io subito ho immaginato qui è successo qualcosa al ministero. Io sono convinto che Alfano effettivamente non sia stato coinvolto almeno inizialmente nella questione e quando ho sentito parlare di un aereo già privato pronto per questa persona ho pensato ancora peggio, a molto peggio, soprattutto sapendo i flussi di denaro che il Kazakistan può deviare in qualunque parte del mondo. Grazie Sergio. Allora, io so che il senatore Casson tra poco ci deve lasciare, dunque ho un'ultima domanda per lei. Ma lei, se fosse nella situazione di Alfano, con una struttura che non l'ha informata, si dimetterebbe oppure no? Guardi, perché qua è anche, Casson, glielo chiedo non a caso, perché è anche una questione personale, oltre che una questione politica, è una questione di mozione di sfiducia, capisce? Ma guardi, allora, intanto dall'evolversi della discussione questa mattina, io sono in grado, vorrei dire anche un'altra cosa, è impossibile, conoscendo la polizia, conoscendo come lavora l'ufficio politico, il Ministero degli Interni, che non sapessero che si trattava di una persona che aveva questione di residenza, di asilo politico, è materialmente assolutamente fuori della realtà. Quindi questo dato è assolutamente inventato, che non sapessero, e assolutamente non può mai essere credibile. In secondo luogo, parla in questo caso anche da ex magistrato lei, cioè conoscendo quei meccanismi. Ma no, conoscendo, guardate, è impossibile che la polizia non sapesse, essendo intervenuto Interpol, ufficio politico, capo della polizia, non esiste questa cosa qua, non esiste, salvo dire vabbè chiudiamo tutta la polizia, ma invece non sarebbe giusto perché sono tanti poliziotti bravissimi, seri, che ben conosco e che lavorano benissimo. Ci sono delle strutture riservate all'interno da sempre che fanno quello che vogliono e questo è certamente il problema, al di là del fatto che il ministro sapesse, proprio lo aggiungo il ministro, se poi a me dovesse capitare che la struttura di polizia non risponde, nel senso che non comunica dati così importanti, non è che me ne vado, metto in riga la polizia, ma per bene, non come è stato fatto con una o due dimissioni di questo tipo qua. Ci sono responsabilità anche diverse, molto più profonde e particolari, e mi pare che ci sia anche già aperta un'indagine della Procura della Repubblica perché ci sono degli aspetti che toccano il codice penale. Grazie Casson e buona giornata. Voglio sentire Carlo da Verona, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo fare una domanda molto semplice, ma se quel signore che tra l'altro mi risulta ricchissimo ha ottenuto asilo politico in Inghilterra, perché non si è fatto raggiungere dalla moglie e dalla figlia e invece le ha, tra virgolette, deportate clandestine in Italia? Allora, Fava, da questo punto di vista cosa si sa? Perché a me risulta che loro fossero venuti in Italia proprio perché a Londra avevano... insomma, non sono state deportate, sono venute nel pieno possesso delle loro libertà e dei loro diritti, sono venute perché consigliate dalla polizia britannica perché si trovavano a rischio permanente di incolumità in Gran Bretagna proprio perché il presidente del Kazakistan da alcuni anni considera come proprio nemico giurato questo dissidente kazako, questo banchiere, e naturalmente per esteso la famiglia. Io vorrei però ricordare, perché siccome ho sentito molte cose, alcune palesemente false o frutto anche di una madornale disinformazione, che la signora Sharabayeva non aveva alcun titolo per essere espulsa. Non è affatto vero che fosse una clandestina, tant'è vero che il Viminale, dopo essersi accorto di aver male letto o di aver subito la manipolazione di alcuni documenti, ha annullato l'ordine di espulsione. La signora Sharabayeva era in possesso di passaporti kazaki, la stessa ambasciata kazaka aveva confermato l'esistenza di questi passaporti perfettamente in regola, per cui intanto l'espulsione è stata contro la legislazione italiana. Vorrei ricordare ancora una volta, perché non possiamo occuparci dei diritti umani soltanto quando c'è da batterci il petto di fronte a questioni che riguardano gli altri e far finta di nulla quando succede a casa nostra. La legge sull'immigrazione, testo unico del 1998, dice chiaramente: attenzione, anche se voi aveste un clandestino, un immigrato che è entrato irregolarmente, persino, come dire, un criminale, voi non potete mandarlo in un paese in cui c'è il rischio che venga privato dei suoi diritti fondamentali e la cui incolumità venga messa a rischio, a repentaglio, che è esattamente ciò che è accaduto con questa signora, per cui non solo aveva tutti i diritti e i titoli per stare in Italia, ma anche se non li avesse avuti, mandarla in Kazakistan sapendo che cosa sarebbe accaduto. Il Kazakistan è stato denunciato da decine di organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani, è stato denunciato e condannato dalla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo perché i livelli più elementari di libertà civile in quel paese non esistono, e il ministro dell'Interno non poteva non sapere, perché ci sono alcune omissioni gravi. Il consigliere diplomatico della Farnesina presso il Viminale, che è la prima persona che va consultata quando ti trovi di fronte a un caso del genere, non ha saputo nulla. I servizi di sicurezza interno ed estero, AISI ed AISE, non hanno saputo nulla. E siccome questa donna non è stata raccolta sotto i ponti, ma in una villa, peraltro abbastanza, come dire, ben tenuta e generosa di Casal Palocco, prima di procedere a un'espulsione con queste modalità, sapendo peraltro che già il Kazakistan ha un aereo pronto in pista, ancora prima il decreto d'espulsione venga firmato, un dubbio ti deve venire, e il dubbio va comunicato al ministro. Io vorrei ricordare che ogni mattina, da quando esiste la Repubblica Italiana, il ministro dell'Interno alle 7 del mattino riceve la telefonata del capo della polizia o di chi ne fa le veci, perché ogni mattina il capo del Viminale deve essere informato su ciò che è accaduto durante la notte, su qual è lo stato dell'arte e la sicurezza del paese per le prossime ore. Un briefing che si fa ogni mattina. Mi rifiuto di credere che per 5 mattine consecutive il capo della polizia facente funzioni non abbia detto al signor ministro: guardi, presidente Alfano, siamo di fronte a un caso diplomatico imbarazzante, con la richiesta del governo kazako che venga loro restituita una donna e una figlia sulla quale non abbiamo nulla, come dire, dipendente dal punto di vista giudiziario, e con questo grande imbarazzo rispetto al marito che è un perseguitato politico. Possibile che tutto questo non sia avvenuto? È possibile che adesso il ministro se ne esca fuori scaricando in modo ingeneroso e indecoroso la responsabilità su un'intera linea di comando? Io ieri ho assistito allibito alla sua relazione, quando ha cominciato a enumerare tutti coloro che secondo lui avevano avuto responsabilità di reticenza, inerzia o omissione, fino all'ultimo dei piantoni della questura, a partire dal suo capo di gabinetto. Ecco, io già considero questo un fatto sufficientemente indecente perché il ministro se ne vada. Allora, sentiamo ancora qualche ascoltatore. Voglio Virgilio da Ravenna, buongiorno. Buongiorno, io stamattina sfogliando un quotidiano, non dico il nome perché non voglio fare pubblicità, ho trovato che il suo direttore ha citato l'articolo 95 della Costituzione, che per me io non conosco, ma al cui comma 2 recita quanto: i ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri. Poi io, conoscendo un po' l'italiano, credo che prenderà atto di questo comma 2, o no? Grazie, buona giornata. Grazie a lei Virgilio. Sentiamo anche Ermanno da Livorno, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare questa domanda. Io ho letto da alcuni giornali che sarebbero anche intervenuti dei magistrati nel caso specifico, credo Procura della Repubblica, procuratore, giudice di pace. Ecco, io volevo sapere come mai non ne parla nessuno di questo fatto, che ci sono stati non solo la polizia che si è occupata del caso e il Ministero degli Interni, ma anche la magistratura. E a che titolo hanno portato questa signora davanti al magistrato, e come mai il magistrato ha avallato pare questa espulsione? Allora, adesso ci torniamo anche su questo. Voglio risollecitare Lucio Malan, intanto per un minuto, poi avremo la viabilità e poi ritorniamo di nuovo con lei su una serie di elementi. Allora, innanzitutto il citato articolo 95 della Costituzione, sul quale ci sollecitava il nostro ascoltatore Virgilio, e poi quello che le dicevo prima della pausa, poco fa, insomma, qua stiamo anche parlando della moglie e la figlia, mica stiamo parlando del latitante in se stesso. Sì, allora, sull'articolo 95 è ovvio che è quello cui fa riferimento, ma non vuol dire che qualunque cosa venga fatta da una persona che dipende da un ministro debba pagarne le conseguenze il ministro, perché altrimenti vorrebbe dire mettere in mano ciascun ministro e tutto il governo, come addirittura ha detto un ascoltatore che è intervenuto, mettere tutto il governo nelle mani del primo pasticcio che fa un funzionario. Per quanto riguarda la signora Shelabayeva, la operazione non è stata fatta per lei, è stata fatta per catturare il marito, il quale, come è stato osservato da qualcuno, stranamente, ma non stranamente in realtà, pur avendo questo famoso status di rifugiato in Gran Bretagna, ha mandato la moglie in Italia e si aveva notizia che lui stesso fosse in Italia, perché in Gran Bretagna era stato colpito anche da questa condanna da parte della giustizia britannica. Allora, questo spiega l'uso di mezzi così generosi che non sono certamente stati usati per la signora Shelabayeva e tantomeno per la figlia. In generale è chiaro che se emergono, che potranno e forse dovranno emergere ulteriori responsabilità oltre a quelle accertate, e queste ulteriori responsabilità dovranno essere insomma trattate nel modo dovuto, e per cui se ci sono altri responsabili dovranno anch'essi essere rimossi o eventualmente pagare in proprio per eventuali violazioni di legge. Allora, la fermo un attimo, c'è la viabilità, poi voglio ritornare un attimo da lei, perché secondo me non mi ha risposto in pieno, nel senso che uno va là a fare un blitz per prendere un latitante straniero, considerato, dichiarato come pericoloso dall'ambasciata kazaka e dalle autorità kazake, e poi però ci trova la moglie e la figlia e decide di agire in qualche modo sulla moglie e la figlia. 9 in punto. Allora, Lucio Malan, sento poi dal sottofondo che in aula anche lei non mi ha sciolto questo dubbio, ma insomma, uno va là per catturare un latitante e non ce lo trova, e visto che ci siamo prendo la moglie e la figlia. Come funziona, insomma, questo? Funziona così, ma funziona come ciascuno può immaginare, cioè se c'è un'operazione per catturare una persona che è segnalata stare in un certo luogo, si arriva lì, si trovano, quella persona non si trova, ma se ne trovano delle altre, si fa quello che si fa quando la polizia ferma un'auto per la strada anche senza che abbia commesso nessuna irregolarità, identifica le persone che sono lì. Identificandole emerge che questa signora non ha titolo per essere residere in Italia, e procedono a questa espulsione con una rapidità anomala, perché era anomala la mobilitazione di forze, che non era diretta nei confronti della signora Shelabayeva, ma nei confronti del marito, di cui peraltro lei ha negato di essere moglie, probabilmente perché intimorita, temeva di avere delle conseguenze peggiori a dire che era la moglie piuttosto che a negarlo, e questa è stata la cosa. Dopodiché ci sono probabilmente anche in questo state delle leggerezze, ma è una cosa perfettamente normale che in un'operazione di questo genere si identifichino tutti i presenti, probabilmente è stato identificato anche magari qualche, se avevano qualche collaboratore domestico italiano, è stato identificato anche lui, ma essendo italiano non è erano ucraini, se non erro sono stati naturalmente identificati, sì. Ecco, identificati, ma non espulsi, perché evidentemente avevano i titoli per essere in Italia. Allora, poi voglio risentire qualche altro ascoltatore, però voglio tornare da Claudio Fava, perché prima ha fatto un inciso che nel discorso che ci ha fatto, che mi interessa molto e che è un mio grande dubbio fin dall'inizio, perché lei ci ha detto che i nostri servizi non sapevano niente. Ora, io trovo curioso e interessante che questa famiglia fosse da settembre in Italia. Lei con la sorella, il marito della sorella, le due figlie, queste due figlie andassero in una scuola in Italia, pur in una scuola privata internazionale, vivessero in una villetta di Casal Palocco e i nostri servizi non sapevano nulla. Anche questo direi che è abbastanza preoccupante, tutto sommato, se è così. È così, almeno così ci è stato riferito, così ci è stato spiegato l'ambasciatore Massolo, che è il capo del DIS, il Dipartimento Informazione sulla Sicurezza, così ci è stato confermato dal generale Santini e dal generale Esposito. Non sono stati informati durante le operazioni e non hanno avuto alcuna informazione, o l'hanno cercata nelle settimane, nei mesi precedenti, e questa è una cosa che ha qualche elemento di bizzarria. Capisco che, diciamo, lo scopo istituzionale delle nostre agenzie di informazione e la sicurezza del paese, però capisco anche che se noi siamo in presenza di un dissidente perseguitato politico in un paese col quale l'Italia ha forti rapporti economici, con uno status di rifugiato rilasciato dal governo della Gran Bretagna, e con la famiglia che si è stabilmente collocata in Italia, con la figlia che frequenta una scuola italiana, ci sembra che dal punto di vista, come dire, l'informazione preventiva necessaria i servizi sarebbero dovuti attivare. Vorrei ripetere, ma è credibile, però, sì. Mi scusi Fava, io una cosa che non riesco a trovare credibile, tanto più che lui in Italia ci è venuto ed è a prescindere dal fatto che sia un rifugiato politico, no? Che sia considerato tale, è comunque un tecnicamente un latitante per il Kazakistan con un mandato di cattura internazionale, e quindi no, veramente è una cosa che non riesco a concepire. Magari sbaglio io, e magari i nostri servizi non sono così efficienti, però fatico a concepirla. Diciamo, i servizi hanno dato un'interpretazione molto riduttiva della loro funzione istituzionale. Noi dobbiamo provvedere a tutelare la sicurezza nazionale, e in questo caso il dissidente kazako, per quanto era inseguito da un mandato di cattura internazionale, non si trattava di reati legati al terrorismo, per cui noi non lo cerchiamo e comunque non abbiamo bisogno di assumere informazioni. È una cosa abbastanza bizzarra, anche perché sul teatro del fatto, chiamiamolo così, c'è stata un'agitazione di soggetti a diverso titolo, tranne le guardie forestali erano presenti tutti, agenzie di informazioni israeliane, agenzie di investigazioni italiane. Mi sembra che ci sia stato un certo assembramento di persone informate e dedicate a questa vicenda. Gli unici che non sapevano e che non sono stati informati, che hanno ritenuto di non doversi informare prima, sono stati i nostri servizi. Anche questo è un punto sul quale, più che il Ministro dell'Interno, il Presidente del Consiglio, perché oggi è lui che fa capo la responsabilità di gestione dei servizi, dovrebbe dirci qualcosa. Vorrei però, ripeto, sottolineare un passaggio che nell'intervento del collega Malan continua ad essere, come dire, mal fornito, manipolato. Non è affatto vero che la signora Shalabayeva non avesse i titoli per risiedere in Italia, tant'è che il governo italiano, ammettendo il proprio errore, ha cancellato il decreto di espulsione. Ha male interpretato o non ha affatto utilizzato le informazioni che aveva. La signora Shalabayeva aveva tutti i titoli per risiedere legalmente in Italia. Se continuiamo su questo punto a dare un'informazione giustificativa nei confronti dell'operato del governo, non facciamo un'opera, secondo me, anche forte e degna nei confronti di una donna che in questo momento trova la propria esistenza e quella della figlia appesa a un filo, il filo dei capricci di questo satrapo kazako. Mi chiedo anche quanto, perché di questo non se ne è parlato assai poco nei giorni scorsi nel dibattito ieri alla Camera, quanto in questa vicenda ci sia anche l'interesse e, come dire, il sostegno e la preoccupazione dell'ENI. Noi abbiamo dal 1972 rapporti antichi e solidi con il Kazakistan, anche un deposito di risorse naturali, gas, petrolio, il 3% delle risorse energetiche del mondo, e dal 92 l'Italia lavora in Kazakistan. Non vorrei che in ci sia stato una moral suasion anche da parte dei vertici dell'ENI per indurre la Farnesina e il Consiglio dei Ministri a chiudere un occhio sulle richieste alquanto bizzarre e pretestuose del Presidente del Kazakistan. Sospetta questo lei? Sì, temo questo. Anche perché... Allora, siccome i nostri servizi, per esempio, guardi Fava, la fermo perché vorrei far replicare su questo in un minuto Malan, perché siamo quasi in chiusura. Malan, prego. Allora, la revoca del provvedimento di espulsione è stata fatta dopo che erano pervenute delle ulteriori specificazioni sui titoli della signora Shelabayeva, che al momento della espulsione purtroppo non risultava provvista di questi titoli. Ok, questo perché... è il punto dei titoli. Sull'ENI, brevemente, Malan, 20 secondi. Guardi, i nostri rapporti col Kazakistan sono importantissimi. Ci sono degli investimenti enormi da parte dell'ENI e ci sono parecchie aziende italiane che lavorano in Kazakistan. Questo non vuol dire, anzi, vuol dire che dobbiamo fare tutto quanto possibile perché i diritti umani vengano rispettati nel Kazakistan, ma nessuno si scandalizza perché abbiamo intensi rapporti commerciali con la Cina, dove i diritti dei dissidenti, è vero, credo che non so se abbiano qualcosa da invidiare al Kazakistan. Grazie Lucio Malan, grazie Claudio Fava, Filippo Reggi in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 75 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.